5D. Ascolta e rispondi. Inviterai Paolo? Certo che lo inviterò. Ringrazierai il professore? Certo che lo ringrazierò. Incontrerai il tuo fidanzato? Certo che lo incontrerò. Visiterai il museo? No, non lo visiterò. Accetterai l'invito? No, non lo accetterò. Guiderai il fuoristrada? No, non lo guiderò.